La mattina seguente il povero anatroccolo fuggì dalla palude. Correva e correva, ma scoppiò un temporale, vitti che sa sfiga. I tuoni lo spaventavano come fossero spari. Il vento e la pioggia erano così violenti che stentava ad avanzare. Solo verso sera raggiunse una capanna. Era così mal ridotta che stava in piedi solo perché non sapeva da che parte cadere. Il vento era tanto violento che il brutto anatroccolo dovette sedersi sul di dietro per non essere portato via. Per fortuna notò una fessura nella porta sbarrata e ci si infilò. «Chissà che disgrazia mi aspetta qui dentro!» pensò l'anatroccolo, che cominciava a diventare un po' pessimista, e dugreo. Si guardò intorno meravigliato. La capanna al suo interno era un circo in miniatura. Dovete sapere che il padrone di casa un tempo era proprietario di un piccolo circo, il mitico Circo Armando. Venghi e signori e signori, venghino, venghino a vedere il Circo Armando, il circo più piccolo del mondo. Accomodatevi e prendete le lenti di ingrandimento, senza lente non si vede un accidente. Abbiamo numeri mai visti, signori e signori. Abbiamo l'incantatore di dischi, qualsiasi disco metto sul piatto del giradischi si incanta. E c'è anche la donna forzuta, che solleva 200 kg ogni volta che si alza dal letto. Una cosa... E c'era anche il mitico mangiafuoco, ma momentaneamente ricoverato a causa di forti bruciori allo stomaco. Bella cosa! E siccome, signori e signori, il circo è piccolo, invece della donna canone abbiamo l'uomo pistola. Uè! E c'è anche un mangiatore di piatti eccezionale, signori e signori. Un mangiatore di piatti eccezionali che dopo aver mangiato il primo, il secondo, il terzo piatto, mangia anche il dessert! E certe volte, quando in forma, anche il vassoio, signori e signori! E per finire, direttamente da Gallipoli, abbiamo la gallina equilibrista. Attenzione, perché cammina sul filo. È arrivata a metà. Depone l'uovo che rimane in perfetto equilibrio, signori, sul filo! Tutto senza rete, ma non c'è pericolo, perché io sto sotto con la padella in mano, se cade mi dà vigo! E questi, signori e signori, erano gli artisti del Circo Armando. Un applauso, prego! La gallina era l'artista più bravo e più amata da tutti al Circo Armando, perché dopo lo spettacolo la frittata era garantita, vitti che su vammini che ci viera. Un bel giorno il padrone decise di chiudere il circo e così se lo mise in tasca e se ne andò a vivere in campagna tipo Totò Cotugno. E andando in campagna si portò dietro i suoi migliori compagni, il gatto e la gallina. Quando videro l'anatroccolo, la gallina cominciò a razzolare, il gatto a fare le fusa e il padrone a sfregarsi le mani. «Bene, bene, una bella anitra, chissà che buone uova ci sa fare!» Era così miope che aveva scambiato il brutto anatroccolo per una brutta anatroccola. Ma dopo 3 settimane i tre rimasero molto delusi. Niente uova. «Metta non cova questa disgraziata!» continuava a ripetere il signor Armando. E se prima erano stati gentili con lui, adesso lo trattavano dall'alto in basso. Cioè le loro idee non si potevano discutere, perché naturalmente avevano sempre ragione loro. L'anatroccolo invece era dell'idea che bisogna discutere e che si possono avere opinioni diverse pur rimanendo amici. Ma la gallina gli diceva: sai fare l'uovo? No. Non puoi schistionare. Farà cosa, ragazzino? Non sai fare le fusa? Zitto! Non sai fare le scintille? Tacci! Non sai fare le uova? Mudo! Per fare le uova ci vuole la testa anche! Non devi pensare ad altro! Un solo pensiero al giorno ti leverà le ansie di torno! Se restringi la tua mente starai in ordine più facilmente! Più piccola è la tua testa, più comodo è il tuo mondo! Una mezza idea, molto piccina, occupa poco spazio ed è carina! Restringi il tuo orizzonte e niente ti andrà a monte! Più piccola è la tua testa, più comodo è il tuo mondo! Voi non mi capite, protestò l'anatroccolo. Noi non ti capiamo, ma tu vieni di comprendere. Il padrone non ti capisce, il gatto non ti capisce, io non ti capisce, manco un pesce ti capisce! A quel punto l'anatroccolo, che non ne poteva più di quella solfa, scoppiò. Credo che me ne andrò a girare il mondo. E mentre se ne andava, la gallina continuava a chiocciare. Dirò. Non sai far le fusa? Ma trovati un'altra scusa. Non fai nemmeno l'uovo, ma vattene di nuovo. Non sai far le fusa? E fattene la rinfusa. Non fai nemmeno l'uovo, ma trovati un'altra scusa. Non sai chiedere scusa? Vattene a far le fusa. E quando andrai di nuovo, non ti darò il mio uovo, né!